Friuli nel mondo, 174esima trasmissione dedicata agli emigrati. Friuli Canoro. Queste villotte, antiche e anonime, sgorgate dal cuore della nostra gente, sono la perenne testimonianza di una tradizione che non può morire. Sono l'espressione più pura della voce delle nostre serene vallate e dei nostri ridenti borghi. Sono la semplice poesia del Friuli espressa in canto. Ascoltate Ducimi di Isinco Soi Biele, Biele No Soi, Anzuline Biele Frutte, Nanà Pipinco Dai, E me mari maladite, Io soi stade a confessami, Mieli mieli, E tunin a leon bielzovin, I fantazze son lazzinguere, Alva iva lusoreli, Mariotine, Nina nana bambinuta, Ducimi disin nere nere. Yeah. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari. Ha cantato il coro Jacopo Tomadini di Udine, diretto da Mario De Marco.